Siamo in diretta, sì, lo vedo qui anche sui schermi di Un'altra Radio Roma. Mi senti? Se vede bene il segnale? Un'altra Radio Roma. Bravo, ma le cuffie chi ce l'ha? Grazie Mr. Campo, lo vediamo che è pronto. Adesso diamo subito la linea a Mr. Gasperino, che ci sta portando qualcun altro da intervistare, vero Mr. Gasperino? Ecco una ragazza che si è presentata oggi qui per partecipare all'evento. Sì, va benissimo, vai, vai, vai. Ma marijuana. Una simpaticissima ragazza del pubblico che veramente fra poco uscirà dal locale presa dai buttafuori. Mi avevano rubato il microfono, l'ho recuperato, proprio tremendo. La capisco, senza il microfono qui in Altra di Roma siamo persi. The music, free. Mi senti? Allora, il cavetto questo qui, questa linea qui dovrebbe essere la musica generale. Grazie per voi qui a Nartara di Roma! Perfetto! Nartra Radio Roma. Radio in bassa frequenza. Eccomi, come mi senti, Campo? Bene. Cominciamo le interviste di questa serata di sfumature. Il primo gruppo che abbiamo qui è stato il primo gruppo che si è esibito sul palco questa sera e sono dell'Umbria, esatto, mi ricordo bene, sì. E loro sono i Dirac. E qui con noi questa sera c'è Edoardo che vi presenterà un attimo il loro progetto. Allora Edoardo, intanto dici tu quale strumento suoni all'interno di questa band, posso dire fenomenale. Grazie. Allora io suono la chitarra elettrica e la formazione è composta da batteria, Michele Gatti, Alessandro Di Loreto basso, Matteo chitarra e voce, chitarra ritmica e voce, io chitarra solista. I nostri ascoltatori sanno che noi amiamo la musica, l'amiamo talmente profondamente che la trasmettiamo perché ci piace, appunto. Certo. Quindi quello che trasmettiamo ci piace. E io posso dire che voi, come formazione, mi avete colpito sin dall'inizio, ma per la capacità di mettere la tecnica musicale in un'espressione armonica e spontanea che si percepisce già al primo ascolto. Questa è l'impressione che io ho avuto. Quanto vi è costato questo? Allora, noi abbiamo iniziato a suonare nell'aprile del 2009. Questa formazione nasce dalle ceneri di un'altra che proprio non aveva niente a che fare, sia come genere soprattutto, perché era un genere molto più appoggiato, molto più magari Pink Floydiano. Diciamo la musica, il genere si è spostato dai Pink Floyd, dai Led Zeppelin, come se si può così definire. In qualche modo ho trovato anche una buona parte di originarietà della formazione. Ora non so chi è l'estro all'interno del gruppo, però l'impatto c'è, l'impatto si sente nello stomaco. Beh, fondamentalmente questa musica l'ho iniziato ad apprezzare molto tardi, io ero prima molto più tranquillo musicalmente, poi è entrato in gioco un ascolto diverso della musica e sono venuti fuori gruppi magari americani che si sentono poco in televisione. Domanda, tipo, siete autodidatti o avete studiato in allora, qualche modo? Io ho seguito delle lezioni, non sono autodidatta, ho studiato, tuttora studio da autodidatta, comunque diciamo che il livello che ho raggiunto, seppur basso, l'ho dovuto alle lezioni di chitarra che ho seguito per 5-6 anni. Posso chiederti una cosa? Noi siamo molto così, quello che ci viene in testa domandiamo, diamo. Thank you. a Roma le situazioni per potersi presentare sono poche, ma in Umbria com'è la situazione? Ah, in Umbria c'è ovviamente grossa crisi, perché va molto la musica da discoteche, ragazzi, è difficile che escono di casa per sentire un po' di buona musica dal vivo. Già a Roma è la seconda volta che suoniamo su un bei palchi e ci divertiamo. Quando fate un pezzo, no? Quando componete un pezzo, sì, quando lo arrangiate, lo pensate, io so quale possono essere le emozioni di chi ascolta il pezzo, ma voi quali emozioni provate? E poi soprattutto, quando un pezzo è terminato, a cosa volete arrivare? Quando un pezzo termina, fondamentalmente secondo me un pezzo non termina mai, un pezzo è scritto, cerchiamo dei suoni molto belli, molto anni 70 o sporchi per cercare di enfatizzare il suono e il silenzio. Poi in qualche modo voi mi ricordate delle formazioni negli anni 70, hanno dominato il panorama della musica, l'hanno influenzato a tal punto che oggi non c'è più nulla. Allora la domanda è questa: se comunque band giovani come la vostra in qualche modo si rifanno ancora a quel periodo e poi comunque tentano introdurre qualcosa di nuovo che è loro, come si fa a non paragonarsi più a quel periodo, aprire un periodo nuovo? Ah, negli anni 60-70 c'era una ricerca diversa, un'esigenza di andare avanti e l'innovazione è stata quella. Adesso l'innovazione è molto difficile da ricercare. Bisogna partire da lì per poter produrre qualcosa. Io addirittura parto dagli anni 20 perché amo il jazz, il blues, il delta blues. Cazzo. Perfetto ragazzi, sta per cominciare la seconda parte. Radio. Cazzo, che bisogna fare per portare la gente a sentire i gruppi come i Dirac o altre formazioni che a mio modo di vedere meritano? Che bisogna fare per scardinare queste resistenze? Secondo me bisogna spegnere la televisione o buttarla fuori dalla finestra, iniziare a uscire di casa e farsi una cultura. L'informazione è mal gestita. Insomma, cercare di ascoltare di meno quello che le stronzate che spassano in televisione, sia per quanto riguarda la musica, ma non solo. Cioè, se consideri che la Pausini e Ramazzotti sono tra gli album più venduti in Europa, band italiane ce ne sono, vogliono uscire e meritano di uscire. Poi certo, questo è un sogno, bisogna vederlo come tale, come un gioco, secondo me. Il sogno, sì, può essere anche qualcosa di raggiungibile e nella nostra vita i sogni servono, perché se no non si vivrebbe. Esatto. Ma l'altra Radio Roma, una web radio, una radio su internet, è libera, non esatto, ha vincoli. Ma infatti secondo me bisogna usare proprio questi strumenti qua per farsi conoscere. È da cambiare la testa della gente, gli strumenti ci sono, c'è internet, ci sono le radio, c'è gente che ha voglia di fare, fondamentalmente passare un sabato sera in discoteca a drogarsi fino alla morte non rende. Cioè, andatevi a vedere un bel concerto, fondamentalmente. È un po' parziale, nel senso che anche le discoteche possono essere scambio di cultura. E se le discoteche, certo, scambio, quelle. Però il problema, secondo me, è legato anche non a grosse case discografiche o a diritti d'autore che a volte sono eccessivi e non permettono esibizioni alle band, perché poi bisogna pagare, certo, il diritto e diventa tutto più difficile starci appresso. L'ultima domanda che ti pongo è questa: se tu volessi raccontare, insomma dire una cosa ai nostri ascoltatori, sì, per promuovere un progetto che è poi quello di Dirac, che cosa diresti? Che domanda! Fondamentalmente venite a sentire un nostro concerto e spero vi si apra un mondo. Noi cerchiamo di portare avanti la nostra identità musicale, le nostre idee, ci piace anche parlare di temi non scontati nelle nostre canzoni e quindi non lo so, se venire a sentire un concerto è il modo migliore per presentarci, secondo me c'è io poco da dire. Io comincerei con dire il vostro sito dove possono allora, trovare. Voi potete trovare le nostre canzoni, i nostri recapiti su dirackband@yahoo.it oppure sul MySpace, myspace.com/dirackband. Bene, e io consiglio, come l'altra Radio Roma, almeno una volta nella vita di venirvi a ascoltare. Arrivederci a tutti, venite a sentire i Dirac. Il prossimo concerto lo faremo al Contestaccio il 15 febbraio. Buona serata. Vi do la linea. Grazie ancora, grazie e ottimo lavoro ragazzi. Continuate con il vostro mitico progetto perché siete veramente, veramente l'esempio da seguire. L'esempio da seguire. Più da seguire. Più da seguire. Più da seguire. Più da seguire. Più da seguire. Più da seguire. Can't hold me back. Originale, originale, originale. Nata Radio Roma, Radio Roma. Originale, originale, originale. Nata Radio Roma, Radio Roma. Originale, originale, originale. Nata Radio Roma, Radio Roma. Solo su un'altra Radio Roma, musica originale. Originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, originale, Radio Roma, Radio Roma, Radio Roma, solo su un'altra Radio Roma, musica originale. L'esempio da seguire.